anche se lei è a fianco. E quando guardi un cielo avorio ti abitui anche ad un lampo. E c'è quel giorno che lo vedi azzurro e pensi di stare sognando. È successo anche a me, giuro che non era maggio. Se ti siedi sotto un salice è facile che piangi. Per te che vuoi lasciare al mondo solo i tuoi avanzi, le sfide di una vita che vinci e non sei contento. Ti guardi dentro e ti dici che questo non è il momento, ma ti stai sbagliando. L'attimo è questo e la vita ti sta abbagliando. Ma io non lo so quante volte avrei potuto sognarti. Per mille anni ancora averti qui davanti senza salutarti. Ma è la curiosità di un bimbo a Luna Park dopo un mare di pianti. Fa sì che vada via ma per non svegliarti senza salutarti. Occhi al cielo vedi il tramonto e l'alba che seguirà. Che con gli occhiali da sole non è lo stesso e neanche la metà. Come se salti ad occhi chiusi o fai l'amore senza anima. Come una vittoria senza pensare a nonna e papà. Cambieresti mai per voglia di riscatto. Arriveresti in alto per puntare più in alto. Ritorneresti alle tue origini da vincitore. Faresti largo a chi ti usa senza esitazione. Ti metteresti in gioco pur di sentire dolore. Daresti amore a chi ti ama senza condizioni. Ma io non lo so quante volte avrei potuto sognarti. Per mille anni ancora averti qui davanti senza salutarti. Ma la curiosità di un bimbo a Luna Park dopo un mare di pianti fa sì che vada via ma per non svegliarti senza salutarti. Per mille volte ancora scorgerti tra gli altri senza salutarti. Ma è la curiosità di un bimbo a Luna Park dopo un mare di pianti che mi fa stare qui, qui per non svegliarti senza salutarti. Senza salutarti.